Radio Wombat. Otto Hertz. Ed eccoci alla nuovissima puntata di 8 Hertz. Questa sera è una puntata storica, così come è storica la band che suonerà stasera per voi dal vivo in un free flow, se si può dire così. E loro sono i Jealousy Party, appunto, che sono nati a Firenze insieme all'etichetta Burp, che è proprio di questi due brutti ceffi, che sono Matt Pogo e Roberta Meatball, VJ, non mi ricordo mai, è lunghissimo, insomma, che hanno un po' in questa landa desolata o capitale del male che è Firenze, hanno un po' aiutato, anzi hanno aiutato molto a far uscire delle cose pazzesche e particolari. Insomma, è un esempio di, se non ci fossero stati loro, tante cose o le faceva qualcun altro, ma non credo, oppure comunque l'hanno fatte loro. E cosa hanno fatto? Roba che spazia dal soul al funk, al glitch, al taglia e cuci con i piatti, sperimentatori fin dalle origini. Hanno suonato con tantissima gente, anche straniera, e ora abitano a Berlino. Hanno iniziato anche più che altro con i fumetti, quindi con delle cose che hanno a che fare con l'arte popolare, diciamo. Adesso non dicono nulla, ma forse parlano dopo, non lo so, faranno quello un po' che cavolo gli pare. Insomma, vi allieteranno con le loro distorture mentali, appunto, ci stavano bene qui su 8 Hertz. Quindi ringrazio ancora e partono con le loro frequenze e il loro delirio anche un po' colorato. Di quanti secondi, di quanti giorni, di quanti minuti e stagioni. canzoni abbiamo bisogno per far diventare i nostri sogni realtà. Dimmi tu, caro ascoltatore, cara ascoltatrice di Radio Wombat, ti sei sintonizzata su 8 Hz e questo è il Gelosi Party. Di quanto tempo hai bisogno? Alza la radio, avvicinati, avvicina l'orecchio all'apparecchio radiofonico, ascolta bene quello che sto per dirti. Ora parlo anche più piano per entrare più in confidenza di te. Di te? Di me? Di quanto tempo abbiamo bisogno per far diventare i nostri sogni realtà? Di quanto tempo abbiamo bisogno per far diventare i nostri sogni realtà? Io ho bisogno di un sacco di tempo. Io ho bisogno di tempo. Tempo! Tempo per fare tante cose. Tempo per mangiare. Tempo per leggere. Tempo per camminare. Tempo per conoscere. Tempo per incuriosirmi. Non è che incuriosirsi sia una cosa così facile. Ci vogliono dei motivi. Ci vogliono delle spinte. Ci vogliono dei momenti. Ci vogliono dei motivi speciali. Perché? Altrimenti perché incuriosirsi? Quando uno può stare dentro la sua cornice, dentro il suo spazio ben definito. Di quanto tempo abbiamo bisogno per far diventare i nostri sogni realtà? Di quanto tempo abbiamo bisogno? Io ho bisogno di tempo. Io il tempo non so che cosa sia. Io ho bisogno di tempo per mangiare, amare, baciare. Oddio, stronco, fuori dal percorso del discorso che si fa. Thank you. Thank you. signorina all'ascolto e dica il fuoco all'orecchio. Poor Enterprise. Thank you. Capito come dico no. Queste sono parole, sì, lo so, lei capito neanche io, dico capito come dico no. Queste sono parole, sì, lo so, lei parli, queste sono parole, sì, lo so, lei parli, capito neanche io, dico capito come dico no. Queste sono parole, sì, lo so, lei parli, queste sono parole, sì, lo so, lei parli, capito neanche io, dico capito come dico no.